giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Sabato di fuoco sul Carso Triestino Aduino, ieri è tornata l'emergenza incendi. La città è rimasta isolata per ore, fiamme spente in serata, attivi ancora alcuni focolai alimentati dal vento. Una sessantina di uomini stanno monitorando i boschi. Riaperti i collegamenti, è normale la circolazione in autostrada, è tornata regolare anche quella sulla viabilità ordinaria, a cominciare dalla costiera triestina. Ancora chiusa la ferrovia, servizio di bus navetta fra le stazioni di Trieste e Monfalcone. I treni dovrebbero ripartire a mezzogiorno. Nel giornale radio ripercorreremo le fasi di una giornata incandescente, cominciata col lungo serpentone di auto incolonnata in autostrada davanti alla barriera dell'Isert e sfociata poi nel paurosissimo incendio boschivo fra Duino e Sistiana, con centinaia di persone evacuate. Vigili del fuoco del Pordenonese impegnati invece da ieri pomeriggio a Rauscedo a causa delle fiamme che hanno distrutto la stalla sociale che ospitava 800 mucche, ferito un dipendente che aveva cercato di liberare gli animali. I pompieri sono ancora al lavoro per smassare il fieno, una ventina di vitellini rimasti uccisi. Temporali e vento forte sempre ieri pomeriggio nella zona di Udine. Decine le chiamate ai vigili del fuoco, alberi caduti e rami spezzati, a Pasean di Prato scoperchiato un tetto. Domenica 7 agosto 2022, sono le 8:31 minuti 50 secondi. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale. Ai microfoni con voi stamattina Nada Cioc e Antonio Cagliazza. Vediamo com'è la situazione meteorologica. Il cielo è da poco nuvoloso a variabile su pianura e costa, nuvoloso in montagna. Ecco le temperature registrate alle 8. Trieste 23 gradi, vento 42 km orari da est-nord-est, Bora con raffiche che hanno raggiunto i 66 km orari. Il mare è mosso, a una temperatura di 23 gradi e mezzo. A Udine e a Pordenone 24 gradi, a Tolmezzo 20, Forni di Sopra 17,5, Piancavallo 15,5, Tarvisio 16,5, Sappada 13, sul Monte Lussari 11 gradi, sul Monte Zoncolan 13, a Lignano 25,5, a Grado 25, la temperatura del mare di 26 gradi. Le previsioni: cielo in genere nuvoloso in montagna, da poco nuvolosa variabile su pianura e costa, saranno possibili locali rovesci e qualche isolato temporale, più probabili sui monti nel pomeriggio. Sulla costa il tempo sarà più stabile, soffierà bora moderata anche sostenuta a tratti sul Carso a Trieste. L'imponente incendio boschivo che ieri ha isolato Trieste è spento, ma alcuni focolai sono ancora attivi e alimentati dal vento. Vigili del fuoco, forestale e protezione civile lavorano intensamente per circoscriverli e spegnerli. In arrivo un elicottero per monitorare anche dall'alto la situazione. Ieri il lavoro di centinaia di uomini a terra, di due elicotteri e di un Canadair dall'aria e poi soprattutto le piogge del pomeriggio e della sera hanno risolto l'emergenza è concluso un sabato da inferno. A Duino e Sistiana, teatro ieri dell'ennesimo rogo sul Carso, con fiamme che si propagavano alla velocità del vento e hanno lambito le case, fatto evacuare un campeggio, provocato la chiusura dell'autostrada e fermato la circolazione ferroviaria per tutta la notte. Almeno 30 vigili del fuoco e altrettanti uomini della protezione civile e del corpo forestale hanno vigilato. Il sindaco di Duino Aurisina, Mitia Petrini, per tutta la notte è rimasto in contatto con le forze dell'ordine. Gli chiediamo qual è la situazione. La pioggia ci ha aiutato, la bonifica è perdurata per tutta la notte da parte della protezione civile, sostanzialmente nell'area dietro il supermercato Granduino. Adesso alle 8:30 abbiamo ancora un incontro di coordinamento con la prefettura e gli altri organi competenti, però sembra che la situazione sia assolutamente sotto controllo. Attualmente rimane ancora chiusa l'area di rifornimento Duino Nord? Sì, l'area di rifornimento Duino Nord rimane ancora chiusa perché comunque non è stata ancora totalmente bonificata, come anche la rete ferroviaria non è stata ancora aperta. L'autostrada ieri è rimasta chiusa per circa 8 ore fra Villesse e Sistiana in entrambe le direzioni. È stata riaperta ieri sera e ora la circolazione è regolare. Riaperta ieri sera anche la viabilità ordinaria, in particolare la statale 14, cioè la strada costiera, che ieri ha subito il collasso a causa delle deviazioni del traffico. La circolazione ferroviaria dovrebbe riprendere a mezzogiorno. Per tutta la notte i tecnici hanno lavorato per riparare i danni provocati dalle fiamme alla rete elettrica. Tra poco, alle 9, si farà il punto della situazione. Fino a mezzogiorno un servizio di bus collegherà le stazioni di Trieste e di Monfalcone. E veniamo alla cronaca di ieri, al racconto di una giornata che avrebbe dovuto essere solo un sabato da bollino nero sulle strade per l'esodo dei vacanzieri e che invece si è trasformato in un vero e proprio inferno. Quello che doveva essere un semplice sabato da bollino nero sulle autostrade per i vacanzieri è diventato un inferno. Comincia tutto poco dopo le 12, quando probabilmente dalla ferrovia e da dietro l'area di sosta Duino Nord partono due focolai. Gli abitanti provano in fretta a spegnere il rogo, cercando di salvare le proprie abitazioni, ma non c'è verso di contenere le fiamme, che arrivano praticamente a bordo strada. Il vento e forse un altro innesco ne fanno partire un altro, sul Rilke, a due passi dal campeggio, che viene evacuato. Arrivano gli elicotteri, inizialmente due, poi da Genova anche un Canadair, e soprattutto arriva la pioggia, quasi in attesa. Nel primo pomeriggio aiuta, ma non è decisiva. Poi, al posto della temutissima bora, arriva una nuova perturbazione poco dopo le 18. Non un semplice acquazzone, ma un vero temporale, il più intenso dell'estate, che capita proprio nel momento giusto. I volti stremati di vigili del fuoco, dei forestali e della protezione civile si distendono. La pioggia cade intensa per 3 ore e il peggio sembra passato. Si torna nelle case, nel campeggio, e anche le lunghissime code cominciano a muoversi. Mai come in queste ore, benedetta pioggia. Duino, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. E sentiamo ora la testimonianza del signor Vladimirovic, che vive a Duino e che ieri ha cercato con la pompa di bagnare la vegetazione che circondava la casa dei vicini per impedire che fosse divorata dalle fiamme. Quando il fuoco si è avvicinato alla casa, la signora ha due genitori anziani e ha dovuto evacuarli, e in pratica mi sono trovato da solo, io e un altro mio amico Andrea. C'erano due case, abbiamo iniziato con quello che avevamo a bagnare il confine fuori dal giardino, finché le fiamme sono arrivate talmente vicine, a 5 metri, e sono corso in strada e ho fermato, c'era un equipaggio della protezione civile dei gassilzi, e sono corsi dentro e sono riusciti a fermarle, sì, perché io con la gomma, quella che si bagna le piante, il giardino, due case confinanti, sì. E poi sono arrivati questi qua della protezione civile, dei gassilzi sloveni, che erano con la jeep, che hanno attraversato il monte e hanno salvato le case. Stesso discorso è successo più avanti, in pratica erano altre 3 case, erano circondate dal fuoco, sì. Però tutte le case sono state salvate, ma secondo me il panico maggiore è stato quando l'incendio è divampato vicino c'erano fiamme altissime proprio attaccate ai distributori della Duino Nord. Lì era veramente una cosa da panico, sì. E ora sentiamo altre testimonianze raccolte dal collega Andrei Marušić della redazione slovena. Ascolterete un ragazzo che ha visto l'avvio dell'incendio in prossimità dei binari della ferrovia. Prima c'era un incendio di sterpaglie tra la ferrovia e l'autostrada, dopodiché l'incendio è andato oltre la ferrovia e poi hanno iniziato a prendere fuoco i pini. Una volta che hanno preso fuoco i pini si è creata una grande fiammata. Con la bora qualche tizzone ardente è stato spinto di là e hanno preso fuoco di nuovo la zona tra la ferrovia e l'autostrada e anche tra l'autostrada e l'autostrada. Hai visto gente scappare di casa? Sì, qua ci sono diverse case, la gente è scappata via con le auto, alcuni animali hanno preso e sono andati via per il bosco verso Bisogliano. Abbiamo visto un po' di fumo, inizialmente sembrava poco, e poi nel giro di pochi secondi le fiamme sono propagate fino a casa nostra e abbiamo deciso di scappare perché era veramente una situazione critica. Siamo dovuti scappare per il bosco perché la strada era bloccata dalle fiamme, e quindi abbiamo preso le macchine e siamo andati per il bosco. Gli abitanti più sotto di noi sicuramente avranno avuto più problemi perché appunto le fiamme erano proprio lì. Il Kulturnidom di Gorizia si mobilita intanto per raccogliere fondi da destinare alle popolazioni colpite anche nelle scorse settimane dalla drammatica diffusione degli incendi. La raccolta fondi è in pieno svolgimento presso la segreteria del Kulturnidom di Gorizia. Inoltre, per i versamenti di solidarietà è possibile utilizzare gli appositi conti correnti segnati sul sito del Kulturnidom. Non mancheranno ulteriori iniziative di solidarietà con il patrocinio dell'Unione Culturale Economica Slovena, l'SKGZ, e del Consiglio delle Organizzazioni Slovene, l'SSO. A Raucedo, nella stalla sociale, dove ieri hanno preso fuoco le balle di fieno, facendo scappare quasi tutte le 800 mucche, i vigili del fuoco stanno lavorando per smassare il fieno rimasto e bonificare la struttura. Nel tentativo di liberare gli animali, un dipendente della stalla sociale si è ustionato una mano e ha riportato una lieve intossicazione da fumo. È stato quindi trasportato all'ospedale di Spilimbergo per accertamenti. Le mucche impaurite sono scappate creando scompiglio tra le vie di Raucedo. I paesani sono riusciti comunque a fermarle e a sistemarle in un'area all'aperto. Una ventina di vitelli però non ce l'ha fatto. I lavori di smassamento dei vigili del fuoco proseguiranno per tutta la giornata. E il maltempo, che nel pomeriggio di ieri era arrivato a rallentare le fiamme sul Carso, era passato con raffiche di vento molto forti su Udine e Tavagnacco. È bastata qualche ora di pioggia per far prendere letteralmente d'assalto il centralino del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine per segnalare danni. L'ondata di maltempo prevista per il weekend è arrivata nel primo pomeriggio, breve ma intensa, e si sono registrati anche i primi danni da maltempo. Il violento acquazzone si è abbattuto tra Udine e Savagnacco, ha lasciato al suolo diversi alberi abbattuti a causa delle forti raffiche di vento. Premariacco, Tricesimo, Cassacco e Pasian di Prato le zone più colpite, una cinquantina gli interventi finora effettuati dai vigili del fuoco di Udine, Cividale, Codroipo, San Daniele, tanti rami che hanno invaso le strade, la segnaletica di Velti, tetti scoperchiati a Pasian di Prato e una tromba d'aria ha colpito il borgo Miotti a Cassacco. Amadio Pittoni, caposquadra dei vigili del fuoco. Noi eravamo già in giro per il territorio proprio per assistere i cittadini con gli alberi sradicati sulle strade, sulle facciate anche delle case. Proprio c'è stato un vento molto forte. Qui la tromba d'aria ha avuto la meglio, appunto facendo questo danno sulla copertura. C'è tutto da mettere in sicurezza perché è tutto precario, le strutture sono state danneggiate, gli alberi divelti, proprio è abbastanza grave la situazione. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Dopo un anno esatto in Friuli Venezia Giulia ricompare la febbre del Nilo. L'infezione è stata riscontrata in un donatore di sangue di Pordenone, del tutto asintomatico. Primo caso di West Nile in regione, a Pordenone, proprio come l'anno scorso, esattamente in questa data. Ma questa volta la prognosi non è riservata. Il soggetto è un uomo di mezza età, ma non è noto il luogo di residenza. Non ha sintomi. Lunedì il test di conferma. Se sarà spazzato via ogni dubbio, scatteranno le indagini del Dipartimento di Prevenzione per eventuali bonifiche nei pressi della sua abitazione. Era solo questione di tempo, visto la vicinanza al Veneto. Il Padovano è l'area con più casi in Italia e dove è stato riscontrato il primo contagio umano della stagione. A colpo d'occhio si intuisce come la circolazione quest'anno sia più diffusa e precoce dell'anno scorso, anche a causa del gran caldo. I serbatoi del virus sono principalmente zanzare, ma è trasmissibile anche con le trasfusioni. Ecco perché, dopo le segnalazioni della presenza di zanzare portatrici in provincia di Udine, Gorizia e Pordenone, su indicazioni del Centro Nazionale Sangue, si effettuano analisi su tutte le sacche prelevate, così da garantire sicurezza al 100%. Andrea Bontadini, coordinatore del Centro Regionale Sangue. La nostra rete è stata messa subito sotto controllo prima ancora di avere dei casi sulla popolazione. Questo era un donatore asintomatico e quindi è stato il test che ha permesso la visualizzazione di questo virus e quindi la eliminazione di questa unità di sangue, che non ha creato assolutamente quindi nessun danno a nessuna persona. La maggior parte delle persone infette non mostra alcun sintomo. Fra i casi sintomatici circa il 20% ne presenta di leggeri, anche dolori emicranici e mal di testa. I sintomi sono molto variabili, possono essere dalla puntata febbrile a una leggera come forma simile influenzale. Purtroppo in questo periodo Covid o altro sono sintomi molto comuni a tante patologie virali. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Prima pagina del Piccolo di Trieste, una grande foto di due vigili del fuoco che orientano il getto dell'idrante sulle fiamme fra gli alberi di un bosco del Carso. Titolo di una sola parola: ancora. L'incendio, il Carso riprende a bruciare, poi arriva la pioggia. Il Carso ancora in fiamme, paura a Duino, A4 chiusa, poi la pioggia e la tregua. Ecco il titolo del racconto della giornata a pagina 2. La fuga dall'autogrill di turisti e dipendenti a pagina 3. L'allarme gas, il rogo ha rischiato di far esplodere i grossi depositi delle case verdi. I residenti, potevamo saltare tutti in aria, c'è mancato davvero poco. Questo a pagina 4 e quindi a pagina 5, evacuati 1300 campeggiatori, sgomberati il mare Pineta di Sistiana e il vicino supermercato Conad. Le fiamme erano a pochi metri. Le pagine di Trieste aprono sull'istruzione, dottorati all'università verso il raddoppio le borse a disposizione, dalle 108 del 2020 si potrà arrivare fino a 200 grazie ai fondi del PNRR, alle collaborazioni con l'imprenditoria e a progetti nazionali di cui l'Ateneo fa parte. Più avanti, Sant'Antonio pronto entro il mese il progetto integrale per la piazza. Paginone culturale, il Revoltella mette in mostra le sue sculture. Dalle commissioni del Barone alla Fiber Art. Dal 3 novembre, per i 150 anni dell'istituzione, un itinerario ragionato e originale alla scoperta del patrimonio delle collezioni. Nello sport, Triestina, i tifosi si muovono, superati i 1600 abbonamenti. Una foto delle fiamme che attaccano l'autostrada Duino è di fatto il titolo di apertura del Messaggero Veneto, che scrive: Carso in fiamme, autostrada chiusa. Al centro pagina il maltempo e le frane. A Sauri si è interrotta la strada per Forcella Lavardette. A Paluzza, sedicenne sfiorato da un fulmine. All'interno del giornale anche l'intervista con il glaciologo Renato Colucci, che spiega come questo caldo estremo, soprattutto in termini di durata, non appartenga alle nostre zone. E poi il lutto a Gemona per la morte della piccola Adele di 7 anni per una malattia. Il Messaggero Veneto dà spazio anche alla campagna elettorale con l'accordo a sinistra. Dalle pagine di Udine, gruppo Danieli e AFDS vincono un'altra sfida, scrive il Messaggero. La nuova autoemoteca, il gioiello da 400.000 euro, è stato presentato ieri. Il Gazzettino del Nord-Est del Friuli titola: Il Friuli brucia, caccia i piromani, la forestale indaga sui roghi a Polcenigo e ancora fiamme sul Carso. La fotonotizia è della Malga Pramosio, dove un ragazzo è stato colpito da un fulmine. Quindi la notizia del 23enne friulano trovato ieri privo di sensi nella piscina di un residence a Lignano dopo aver battuto la testa e ricoverato all'ospedale in gravi condizioni, l'ha trovato un vicino. Sempre sul Gazzettino, notizia: droga e tirapugni nell'auto in Carnia, nei guai una coppia di fuori regione. Vediamo l'edizione di Gorizia e Monfalcone del Piccolo. La parte relativa all'incendio è comune all'edizione triestina. Il giornale si differenzia all'interno. L'apertura delle pagine goriziane: alla casa di riposo Culotte, contagiati 20 anziani, metà operatori a casa col Covid. Il segretario della CGL Funzione Pubblica, Alessandro Crisman, definisce drammatica la situazione nella struttura di Lucinico e denuncia: manca più di metà del personale. A Lucinico un caso poi di legionella, l'ha contratta un volontario che lavora al canile, la struttura è stata chiusa per precauzione. Dopo la segnalazione alla SUGI, campionate condutture idriche e fonti d'acqua, ma non si sa da dove sia partito il contagio, il canile sarà comunque sanificato. Lavori pubblici, strade e marciapiedi da rimettere in sesto, Via Libera un progetto importo da 500.000 euro, interessate 7 arterie cittadine dal centro alla periferia. In via Trieste sarà realizzata anche un'isola spartitraffico. L'apertura delle pagine del Monfalconese è su un servizio di assistenza agli anziani attivato dal Comune della Città dei Cantieri. Il Comune ti chiama, quasi 10.000 contatti con gli over 70 residenti in città. Primo caso di contagio di West Nile in regione, il virus è stato rilevato a Pordenone in una sacca di sangue donata da un residente in provincia, è il titolo di apertura del Messaggero Veneto di Pordenone, la fotonotizia è quella dei pompieri impegnati nello spegnimento del fuoco nella stalla di Rauscedo e poi lago di Redona in secca, mais e soia senza acqua da Ferragosto, è ancora uno dei titoli del Messaggero Veneto che riporta anche l'avventura da Fiume Veneto a Capo Nord in bici di due amici, Salvo Previtera e Mario Moretto, di 66 anni, che dicono tanta fatica e maltempo, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Il Gazzettino di Pordenone mette al centro pagina l'incendio della stalla Rauscedo e la strage di animali, 20 vitelli uccisi. Richiamo in prima per la cronaca di Pordenone, Bronx, presi teppisti che lanciavano sassi sulle auto e poi un'intervista con Giampiero Benedetti, presidente di Confindustria Udine, che dice sì ai lavoratori stranieri ma solo se servono. I vigili urbani di Monfalcone, con varie pattuglie negli ultimi 10 giorni, hanno individuato e sequestrato 13 veicoli sprovvisti della copertura assicurativa e quindi impossibilitati a risarcire i danni o le lesioni causate in caso di incidente stradale. Le pattuglie hanno controllato 1.832 veicoli, 75 dei quali sprovvisti della revisione periodica del veicolo. Individuati anche due conducenti ai quali era stata sospesa la patente, che verrà ora revocata. Tennis, Andrea Vavassori si regala una delle più belle pagine della sua carriera conquistando la finale dell'ATP Challenger 80 di Cordenons, la seconda per il 27enne torinese dopo quella ottenuta soltanto 7 giorni fa a San Benedetto del Tronto. Il punteggio conclusivo della semifinale è stato 6-7, 6-1, 6-4 dopo 2 ore e 40 minuti di gioco contro lo statunitense Nicolas Moreno de Alboran. Oggi alle 18 la finale del singolare maschile fra Andrea Vavassori e il cinese Zhang Zichen. Ciclismo. Sono 120 le cicliste iscritte al 27esimo giro della provincia di Pordenone Donne, categoria Open, gara organizzata dall'Associazione Ciclistica Valvasone. Le atlete dovranno completare 85 chilometri con partenza alle 10 dal castello di Valvasone, arrivo attorno a mezzogiorno ad Arzene. Dopo lo start ufficiale il gruppo attraverserà Maiaroff, Arzene, Valvasone, Arzenutto, San Giorgio della Richinvelda e Postoncicco, prima di fare ritorno a Valvasone e quindi un ulteriore passaggio a Maiaroff, previsti successivamente 5 giri in un circuito prima del traguardo finale ad Arzene. Chiusa forte oggi ricorda il poeta Pierluigi Cappello che l'8 agosto avrebbe compiuto 55 anni. Alle 11 nella chiesa Racolana ci sarà la messa con il coro Le Colonne di Castionsistrada e Nicola Tirelli all'organo, Andrea Martinella all'obo e corno inglese, Emanuela Mattiussi voce solista. Alle 14 un concerto jazz presso il Forte Colle, alle 18 al Teatro Comunale Pierluigi Cappello sarà presentato il libro Fissare il Tempo, verrà esposta quindi la scultura che il circolo Il Faro di Reana del Royale ha donato al comune di Chiusaforte per omaggiare la figura del poeta. La serata si chiuderà con la processione laica in parole e musica che dal teatro arriverà alla vecchia stazione. Il Greto del Tagliamento a Caprizzi di Socchieve presso la baracca dei pescatori sarà sede per tutta la giornata di una serie di eventi sul Re dei Fiumi Alpini. Si inizia alle 9:30, interverranno tra gli altri Tullio Avoledo, lo storico ambientale Giacomo Bonan, le donne protagoniste della staffetta In Marcia col Tagliamento, lo scrittore Stefano Moratto e Franceschino Barazzutti, storico difensore del fiume. Alle 14 il musicista Stefano Andreutti sarà protagonista della performance Tagliamento Sonoro. Alle 18 al Centro Culturale verranno presentati e proiettati podcast e cortometraggi dedicati al tagliamento. Rievocazione storica al Castello di San Giusto a Trieste con l'associazione Stratagemata di Treviso, che condurrà i visitatori in un percorso dedicato al mestiere delle armi e terribili lanzichenecchi, visite storico-didattiche con partenza alle ore 10.30, 11.45, 15, 16.15 e 17.30. Alcuni concerti. Ruggero dei Timidi sarà in concerto stasera al Castello di Udine col suo tour estivo Sole Cuore Hangover. Il crooner sarà affiancato sul palco dal maestro Ivo, tenore lirico di scuola genovese, e dalla sfrontata soubrette Fabiana, che a tratti si trasforma in Fabicù. Il concerto alle 20. Al Castello di San Giusto per il Trieste Rock Summer Festival arriva Filippo Destrieri con lo spettacolo omaggio a Franco Battiato, il padrone della voce, con Doniella Sassi, voce recitante. Gli Ottoni, Max Rapace, Brass Factory sono i protagonisti sul palco verde del parco di San Valentino a Pordenone alle 19. Per il pubblico dell'estate al parco, Max Rapace e Brass Factory proporranno un repertorio che va dal reggae al pop degli anni 80 alla musica grazie agli arrangiamenti firmati da Andrea Bonaldo, trombettista formatosi al Conservatorio Tartini di Trieste e oggi richiesto dalle più importanti orchestre internazionali. Concerto delle sorelle Stefania e Lisa Fassetta al pianoforte e al violoncello questa sera a Barcis nell'ambito del Premio Letterario Nazionale Giuseppe Malatia della Vallata. In programma musiche di Saint-Saëns, Gabriel Fauré e Niccolò Paganini. Il concerto si terrà nella chiesa parrocchiale di Barcis alle 20.45. Cinema ambulante al rifugio Tamai sul Monte Zoncolani. Il programma prevede la passeggiata, la cena in rifugio con la proiezione del Diamante Bianco. Il ritrovo è fissato alle 16. Alle 20.30 al rifugio Tamai, proiezione del Diamante Bianco ancora, preceduto dal corto Passer di Alessio Coccia. I programmi odierni della nostra sede in radio alle 9.15 andrà in onda la sesta puntata di Quel sogno di un valzer, lo sceneggiato musicale di Gianni Gori registrato nel 1988 per la regia di Guido Pipolo. In TV la prima puntata di Magazzino 26 dedicata alla diplomazia scientifica, a seguire il sottile velo azzurro di Ivo Pecile e Marco Virgilio sugli effetti del cambiamento climatico nella nostra regione. Ringraziamo per l'assistenza tecnica Paolo Cassano e Daniela Sossi per la collaborazione in redazione. Alle 8.57 minuti concludiamo questa edizione. L'informazione torna alla radio col giornale radio oggi in onda alle 12.15 e poi col telegiornale delle 14 su Rai 3. Grazie della cortese attenzione da Nada Cioc e da Antonio Cagliazza. Buona domenica e a risentirci. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.